Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Quella di oggi potrebbe sembrare una storia di sport. In realtà è la storia di due giovani donne che condividono lo stesso amore per una disciplina sportiva e che vengono messe in competizione dalla società dell'immagine anche su un campo che esula il loro gesto atletico, coinvolgendo senza ragione l'estetica. Quella di oggi è una storia di cliché sull'aspetto fisico e sullo sport femminile che finiscono per diventare, se esasperati, causa di un triste destino. La storia spesso esige delle vittime sacrificali per cristallizzare alcuni momenti decisivi, rendendo più facile così la catalogazione di nuovi concetti, nuove visioni, nuove categorie a cui far riferimento. Oggi, nella fattispecie, Destini Incrociati parlerà di pattinaggio di figura, ovvero di pattinaggio artistico su ghiaccio. L'evoluzione nel tempo di questa disciplina sportiva è interessante, soprattutto perché ci introduce l'argomento dell'inevitabile connubio tra interpretazione artistica e aspetto fisico. Sarà proprio questo connubio la causa scatenante dell'incontro-scontro dei destini di cui parliamo oggi, che è costato veramente caro a una delle nostre due protagoniste, Tonya Harding. Tonya Harding. Quante punizioni devo ancora subire? Prima di approfondire perché Tonya parli di punizione con tanta veemenza, partiamo dall'inizio. Sono i primi di aprile del 1970, quando Lavona Harding comunica al marito Al di essere incinta e di avere la sensazione che si tratti di una femmina. Alla TV stanno dando Hello London, l'ultimo film con Sonia Heine, una grande pattinatrice diventata anche attrice, e l'immaginazione della mamma comincia a correre veloce. Al in realtà non nasconde che preferirebbe un maschio. Le trasmissioni improvvisamente vengono interrotte dal notiziario. This is Houston. Say again, please. Houston, we've had a problem. So, for the first time in the history of spaceflight, the American spaceflight, there is no backup system to save them if anything goes wrong. La missione spaziale dell'Apollo 13, che aveva avuto un guasto e che aveva tenuto col fiato sospeso il mondo, è rientrata sulla Terra. Quella frase, Houston abbiamo un problema, entrata ormai a far parte del lessico comune quando si parla di un imprevisto negativo, risuona nella famiglia Harding quasi come un presagio. Non possono di certo ancora immaginare che anche la figlia sarebbe entrata a far parte del linguaggio comune per un'esperienza negativa, come vedremo più avanti. Forse vale però la pena di fare un salto ancora più indietro, agli albori del pattinaggio artistico. Non possiamo che partire dal Nord Europa, dove peraltro si consumerà in parte anche la nostra vicenda di oggi, e da una delle più grandi pattinatrici di tutti i tempi, Sonia Heine. Sonia è una bionda ragazzina norvegese che all'età di solo 12 anni partecipa alle prime Olimpiadi invernali del 1924, a Chamonix, piazzandosi inaspettatamente all'ottavo posto. Dai 16 anni arrivano le vere soddisfazioni, 10 titoli mondiali e 3 medaglie d'oro consecutive nelle 3 Olimpiadi successive. Sonia è la regina incontrastata dell'artistico femminile di allora e di sempre. Oltre a essere indiscutibilmente brava sui pattini, è anche la prima a indossare un gonnellino corto. Gonnellino che è diventato ormai il costume tipico ed è la prima a introdurre la coreografia nel pattinaggio, come dirà lei. Voglio fare con i pattini quello che Fred Astaire sta facendo con la danza. La sua abilità sui pattini e il suo aspetto fisico le consentono di imporsi sulla scena anche oltre lo sport e Hollywood non si fa sfuggire l'occasione, come ricorda proprio Fred Astaire. Nel 1936, una semplice frase detta da Adolphe Monjou su Sonia Heine diede inizio alla sua carriera cinematografica. Tutto quello che disse Mr. Monjou fu: Dancing on ice. Ebbene sì, danzare sul ghiaccio è una novità, soprattutto se viene fatto con tanta grazia. Più che una pattinatrice, Sonia è una ballerina che volteggia su una superficie scivolosa e si libra nell'aria con grande padronanza del corpo. Il lato estetico gioca un ruolo fondamentale. L'abbigliamento scelto, l'attenzione per la parte artistica degli esercizi, la postura di braccia e gambe, tutto concorre a dare del pattinaggio una nuova visione. E poi Sonia è decisamente fotogenica, cosa da non sottovalutare nella nascente era dell'immagine. Hollywood was not new to skating. Nearly half a century earlier, little Sonja Henie of Norway was the first to spin gold from gold. She went showbiz. I film che interpreta sono per lo più commedie sentimentali e musicali, che fruttano cospicui guadagni per la 20th Century Fox e che fanno diventare la Heine una delle celebrità più amate dal pubblico. Le coreografie di pattinaggio su ghiaccio sono un elemento ricorrente distintivo dei suoi film. Enfatizzare la femminilità attraverso la grazia della danza, piuttosto che attraverso la forza del gesto atletico, è il segreto per il successo. Si deve certamente alla sua celebrità l'aumento del numero di ragazzine americane che chiedono alle madri di poter imparare a pattinare. Probabilmente anche Tony Harding deve in parte alla sua fama quel primo paio di pattini che le verranno regalati dalla madre, grande ammiratrice di Sonja Henie. È lei che incarna il sogno di uno sport che riesce a unire prestanza fisica e interpretazione artistica, senza rinunciare alla femminilità. Il pattinaggio artistico di figura è essenzialmente armoniosità dei movimenti. Si aggiunga a questa grazia, eleganza, senso musicale e anche, perché no, sensualità. Le sue origini sono le stesse del pattinaggio di velocità, ovvero mezzo di trasporto e di spostamento nelle regioni ad alta densità di ghiaccio. Ma non è certo del pattino come mezzo di trasporto, quello di cui vogliamo parlare oggi, ma dell'evoluzione del pattinaggio artistico femminile attraverso le sue protagoniste, per arrivare dritti al cuore dell'incrocio di oggi, che di questa evoluzione è rimasto vittima. 73 die in the crash of a Belgian Sabena jetliner aboard the doomed craft on their way to Prague for international competitions where the 18 members of America's figure skating team. Il 15 febbraio del 1961, l'intera squadra di pattinaggio di figura americana è sul volo Sabena 548 per Praga, dove si sarebbero tenuti i campionati mondiali di pattinaggio. Per una avaria del velivolo in fase di atterraggio, l'aereo si schianta. Muoiono tutte le 72 persone a bordo. Per il pattinaggio artistico americano, che fino agli anni 60 aveva vissuto la sua fase d'oro, è una vera tragedia. La notizia crea sgomento nel mondo del pattinaggio e il comitato esecutivo dell'International Skating Union decide di annullare la competizione in segno di lutto per la morte dei colleghi statunitensi. Il pattinaggio di figura in America deve ripartire da zero, come ricorda una giornalista. L'incidente fu devastante per il pattinaggio di figura americano, perché non solo scomparvero i pattinatori, ma anche gli allenatori. Ma lo sport non può morire. Le nuove generazioni devono portare avanti la tradizione del pattinaggio artistico, questa disciplina di elevatissimo contenuto atletico e tecnico, ma che necessita anche di un innato senso artistico espressivo. Sono soprattutto le madri a spingere le figlie in questa direzione. Sembra quasi una questione tra donne. Così sarà per le nostre due protagoniste. Ma torniamo a Tonia. Il 12 novembre del 1970 all'ospedale di Portland, nell'Oregon, nasce Tonia Maxim. La sua infanzia non è delle più tranquille, con una madre inquieta e aggressiva che passa da un marito all'altro e un padre ammalato che non lavora e che quindi non riesce a mantenere la famiglia. I primi pattini le vengono regalati su volontà della madre, quando Tonia ha solo 3 anni. La sua forza, strana per una ragazzina della sua età, fa intravedere in quella biondina un investimento per il futuro. Il padre, nel frattempo, la cresce come un maschiaccio. Le insegna a tagliare la legna, a riparare i motori e a sparare col fucile. La madre, invece, la porta in palestra. Nonostante le ristrettezze economiche, riesce a pagarle le lezioni di pattinaggio. Tonia ha la stoffa per farcela davvero. Può essere il riscatto della famiglia. Questa tensione la segnerà profondamente, come racconta lei stessa. È stato davvero difficile, perché da allora sono passata attraverso differenti stati d'animo. Cioè, qualunque cosa succedesse nella mia vita mi riportava indietro a quel periodo. I miei volevano spingermi in differenti direzioni. Non sapevo davvero cosa fare. Tonia è davvero brava sulle lame e la sua potenza fisica l'aiuta a specializzarsi soprattutto nei salti. Ne fa di meravigliosi, senza nessun problema nell'atterrare poi sul ghiaccio, il momento più delicato, oltre alla spinta iniziale. La mamma non perde occasione per usare contro di lei parole dure nelle fasi di allenamento. Tutta l'aggressività che l'ha portata anche ad accumulare 5 divorzi la sfoga sulla piccola, che cresce contesa tra le sue ambizioni e le attenzioni di un padre che in realtà avrebbe tanto voluto un figlio maschio. Per Tonia, però, l'obiettivo è chiaro. Avevo bisogno di essere padrona del mio pattinaggio, che ormai era la mia vita. La madre le confeziona i costumi per le prime gare a scuola. Tonia è bionda, gli occhi chiari, eppure il suo corpo e le sue movenze tradiscono quella tensione familiare che le tarpa la femminilità. La sua potenza nelle gambe, che la fa essere così abile nel salto, si esprime anche attraverso il suo sorriso, duro, il suo sguardo, provocatorio, le sue maniere, mascoline. Ancora non sa che la sua preparazione atletica le servirà per arrivare solo fino a un certo punto della sua carriera di pattinatrice. L'aver trascurato per educazione familiare e predisposizione fisica la parte artistica della disciplina le si ritorcerà contro, anche se, come ricorda una giornalista sportiva americana, non c'è nessuno che abbia il talento fisico e l'abilità nel salto che ha avuto Tonya Harding, assolutamente nessuno. Il primo incontro con l'altra protagonista di oggi, che rappresenta gran parte di ciò che Tonya non è, avviene ai campionati nazionali americani nel 1988. Tonya si dedica alla tecnica e non pensa all'estetica. Il carattere irascibile e scontroso della Harding la fa diventare famosa sin da subito, sin dalle sue prime apparizioni sulla scena sportiva nazionale. Ma anche la sua preparazione atletica è ormai conosciuta e ne dà continuamente prova. Ai campionati del 1988 si posiziona quinta, una posizione in più rispetto al suo debutto del 1986, mentre in dodicesima posizione c'è la sorridente Nancy Kerrigan. Nancy arriva dal Massachusetts, per l'esattezza da Stoneham, un centro di appena 20.000 abitanti. La sua è una famiglia come tante, la madre Brenda fa la casalinga, mentre il padre Daniel fa il saldatore, anche se cerca di arrotondare con altri lavoretti. Il ghiaccio in casa Kerrigan sembra essere una tradizione. I due fratelli maggiori di Nancy, infatti, giocano a hockey, ma l'hockey non è di certo uno sport per bambine, così a 6 anni le vengono regalati i primi pattini per dedicarsi al pattinaggio artistico. Il legame che Nancy ha con i genitori è molto forte, col padre, che la supporta nel pattinaggio, e con la madre, che quando lei ha solo 1 anno diventa cieca, come ricorda un suo amico e collega, Told Eldredge. Sì, Nancy era molto legata ai suoi genitori. Poi sua madre era praticamente cieca e il fatto che le facessero avere un monitor apposito per seguire tutte le gare della figlia fa capire quanto ci tenessero ad essere uniti, sempre. Sono davvero delle belle persone. Le ho frequentate spesso anche perché ci capitava di gareggiare nelle stesse manifestazioni. Davvero della brava gente. Anche la comunità del piccolo paese dove cresce Nancy è un po' come una seconda famiglia. Lei è una bambina promettente. Suo padre fa di tutto per mantenere le ingenti spese che una scelta come la sua richiede. Ben presto, fortunatamente, cominciano ad arrivare gli sponsor provenienti dalla comunità cittadina che ci tiene a supportare la giovane promessa locale. Nancy in pista è l'opposto di Tonya. Incanta il pubblico con esercizi artisticamente perfetti. Magari non ha una grande preparazione atletica, ma non perde occasione per esibire il suo splendido sorriso tutto denti, le sue movenze da ballerina e gli abiti tutti fiocchi. È una principessina. Qualcuno sostiene persino che assomigli a Audrey Hepburn. È l'orgoglio della famiglia nella quale vige l'armonia. Nancy parla della madre come della sua migliore amica. Mia mamma è anche la mia migliore amica. So che non è facile essere così vicine alla propria madre, ma io le dico qualunque cosa. Non ci sono segreti. Sono fortunata. Nancy è quanto di più vicino ci sia all'idea della femminilità. È una sportiva, ma non dimentica di essere una donna. È sorridente e accogliente. Ha lineamenti aggraziati come le sue performance sulle lame. La sua forza si esprime nella gentilezza dei modi. La sua potenza è scivolare sul ghiaccio senza aggredirlo. Il fisico longilineo l'aiuta, i capelli scuri da Biancaneve e la dentatura perfetta fanno il resto. L'immagine che Nancy rimanda nella mente degli americani è simile a quella di Sonia Heine, una star del cinema, molto più che una pattinatrice. Ecco come la definisce una giornalista in uno speciale dedicato a lei. Per Nancy Kerrigan il pattinaggio è seriamente un business, ma anche glamour, glamour e ancora glamour. Non si tratta quindi solo di una passione, di un sogno di ragazzina che si realizza, di capacità fisiche sviluppate negli anni, delle belle coreografie più simili a quelle di un balletto che a quelle delle performance sportive. Per Nancy si tratta anche di scendere in pista come una vera principessa del ghiaccio, senza dimenticare nulla nella costruzione del suo personaggio. Gli abiti sono ovviamente un segno distintivo, perché lei vuole essere notata. Voglio essere differente da tutti gli altri. Tanto che Nancy si affiderà per i suoi costumi a una stilista, Vera Wang. Grandi nomi dell'haute couture come Christina Lacroix, alla fine degli anni Ottanta, cominciano a disegnare gonnellini e tute per pattinatrici. Una sezione del New York Times nel 1992 è dedicata solo a questo genere di moda. Difficile scindere l'immagine della femminilità da quella dell'atleta, e Nancy ne è l'incarnazione. Non fa nulla per nasconderlo. Quando vedo qualche pattinatrice sul ghiaccio e la noto perché è vestita in un modo particolare, è bellissimo. Tutto questo aiuta Nancy a costruirsi un'immagine pubblica di un certo genere. Alla TV viene bene, i tabloid la riprendono sempre con quel suo sorriso aperto, dentro e fuori dalla pista si comporta in maniera impeccabile. Mentre Tonya cerca di sopravvivere a una famiglia sempre più disastrata, vedendo nel pattinaggio la sua unica ragione di vita, inteso come performance atletiche, Nancy è circondata dall'affetto di tutti, media compresi, e cerca di capitalizzare sulla parte artistica. Una stilista tutta per lei, una madre per amica, dei fratelli che la idolatrano, un padre premuroso e che cerca sempre di essere al suo fianco, come racconta lui stesso. Ero molto orgoglioso fin da quando era bambina. Ero molto felice ad ogni gara, non per noi, ma per Nancy, che ha sempre lavorato molto per i suoi risultati. Quando si incontrano quella prima volta nel 1988, Tonya e Nancy sono davvero agli antipodi. Tonya vive già col fidanzato, Jeff Gilloway. Ha lasciato casa subito dopo che il padre se n'è andato. Si allena in palestra come un uomo, sollevando pesi e rafforzando la muscolatura in maniera impressionante. La sua preparazione atletica non ha eguali, ma ancora non immagina quanto questo squilibrio tra potenza fisica e senso estetico di lì a qualche anno le sarà fatale. La sensazione che Tonya ha nel vedere la leggiadria della collega, lei che a 16 anni già sapeva eseguire salti e combinazioni perfette, è quella di chi crede di essere comunque più brava. Questo è quello che conta. Destini incrociati oggi è in America tra le lame del pattinaggio artistico. Lame che solcano il ghiaccio delle piste dei campionati nazionali statunitensi, ma che stanno per trasformarsi in lame che feriscono l'orgoglio. L'irascibile mascolina Tonya Harding ha conosciuto la sorridente femminile Nancy Kerrigan. Nessuna delle due ancora immagina quanto queste differenze che le separano saranno causa di uno sgradevole incidente che comprometterà la carriera e la vita di una di loro. Nel 1989 è l'anno dei campionati nazionali. Tonya ottiene la medaglia di bronzo, mentre Nancy è solo quinta, ma è comunque in netta ripresa. Nel 1990 Tonya e il fidanzato Jeff si sposano. La vita della Harding non smette di rivelare colpi di scena. Viene fermata alla guida della sua auto ubriaca. Si fa riconoscere nei locali per il suo caratteraccio e lo stesso marito non è propriamente un santo. L'obiettivo comunque è chiaro sia per lei che per la Kerrigan, le Olimpiadi di Albertville del 1992. Tonya è molto in forma. È la prima statunitense a completare in gara un triplo Axel, un difficilissimo salto, l'unico con partenza in avanti che gli permetterà di vincere il titolo americano e di qualificarsi per i mondiali. Dietro di lei, la giovanissima fuoriclasse californiana dal cognome orientale, Christy Yamaguchi, e Nancy Kerrigan, terza, anche lei qualificata per la rassegna iridata di Monaco di Baviera. In Germania le tre finiranno sul podio, con la Yamaguchi oro, la Harding argento e la Kerrigan bronzo. Non è mai successo nella storia dei campionati mondiali che un unico paese si aggiudicasse tutte le medaglie della sezione femminile. Christy Yamaguchi, Tonya Harding e Nancy Kerrigan hanno rubato la scena. E prima di adesso le loro vite sono state drammaticamente differenti. Per Tonya e Nancy è certamente vero. Tonya prosegue la sua vita da scapestrata. Divorzia nel giugno del 1991 e ottiene dalla polizia un'ordinanza restrittiva che intima l'ex marito di stare lontano da lei, salvo poi ricongiungersi con Jeff nell'estate del 1993. Questo non prima di altre successive separazioni e riconciliazioni, in alcuni casi anche molto rumorose, come nell'ottobre dello stesso anno, quando a dividerli deve intervenire la polizia per fermare Tonya, intenzionata a usare una pistola contro Jeff. Nancy Kerrigan live now, as she has begun warming up. Nel frattempo la Kerrigan sta migliorando la sua tecnica e collezionando risultati sempre più convincenti. Ai campionati statunitensi del 1992 è seconda dietro la Yamaguchi, la Harding è terza, così come anche ai mondiali dello stesso anno, con la Harding sesta. Il piazzamento più prestigioso Nancy lo ottiene ad Albertville, dove conquista la medaglia di bronzo olimpica dietro a Christy Yamaguchi e alla giapponese Midori Ito e davanti a Tonya Harding, che è solo quarta. La competizione tra la Harding e la Kerrigan sta per prendere i toni cupi di una vera e propria tragedia. Due atlete agli antipodi come formazione, caratteristiche fisiche e tecniche che gareggiano per primeggiare nella loro disciplina. La Kerrigan, sempre attenta all'immagine, come racconta un servizio su di lei. Il look di Nancy è una parte importante del suo pattinaggio. È stato il suo semplice ma elegante abito bianco a fare notizia alle Olimpiadi del 1992. Le Olimpiadi di Albertville sembrano essere il luogo dove il pattinaggio diventa un'esibizione di abiti e coreografie. Nancy è su tutte le riviste americane ritratta nella sua posa da ballerina, mentre il New York Times scrive: l'abito aiuta. La cosa più semplice è giocarsi anche questo nella competizione. L'abito di Tonya Harding certamente non aiuta. È qui che comincia il declino psicologico di una delle promesse internazionali del pattinaggio come Tonya Harding, che culminerà nella stagione del 1993-94 in una sconfitta definitiva dell'atleta e della donna, portando alla ribalta mondiale ed extrasportiva la vicenda delle due pattinatrici americane. Nel 93 si parte con alcune prestigiose prove in giro per il mondo. Nancy vince una gara ad Amar, in Norvegia, nell'impianto che ospiterà i giochi di Lillehammer, mentre Tonya finisce terza nello Skate America e quarta nell'NHK Trophy di Tokyo. Nel novembre dello stesso anno arriva una segnalazione ai giudici di una competizione regionale. La Harding ha ricevuto delle minacce di morte, come ricorda lei stessa. Ho chiesto loro di mettermi in un luogo dove nessuno potesse raggiungermi. La decisione senza precedenti è di farle saltare quella gara, valevole per la qualificazione ai campionati nazionali, e ammetterla direttamente alla prova. L'opinione pubblica, quasi mai dalla parte di Tonya fino a quel momento, si intenerisce di fronte alla vicenda e la giovane Harding appare persino simpatica a chi fino a poco tempo prima la ignorava. Addirittura arrivano nelle tasche della giovane di Portland anche $20,000 inviati come omaggio da George Steinbrenner, proprietario dei New York Yankees. In realtà sembra tutto far parte di un piano ben congeniato da Tonya. Anche lei ha diritto ad avere la sua fetta di notorietà extrasportiva che non sia negativa. Anche lei vuole essere nei cuori degli americani, come il visino angelico di Nancy. Tonya deve riguadagnare consensi se vuole partecipare ai giochi olimpici di Lillehammer, e lo fa cercando di battere la rivale di sempre con le sue stesse armi, quelle della ragazza indifesa di nobili valori. Le Olimpiadi di Lillehammer arrivano per la prima volta nella storia a soli 2 anni dalle precedenti, quelle di Albertville. Dal 1994, infatti, le Olimpiadi invernali non si tengono più lo stesso anno di quelle estive, ma si alternano a queste ogni 2 anni. 3, 2, 1, nu! Il conto alla rovescia del giornalista norvegese dà inizio a una delle edizioni più emozionanti dei giochi olimpici. Quelle di Lillehammer, infatti, sono Olimpiadi molto sentite. Forse perché ci troviamo nella patria dello sci, la Norvegia, o forse perché questo cambio di data del successivo orizzonte olimpico, a soli 2 anni rispetto alla passata edizione, ha invogliato molti campioni sulla strada del ritiro a prolungare per un po' i propri sforzi, visto che in fondo 2 anni sono un periodo breve e l'emozione olimpica val bene questo sacrificio. Tonya Harding porta a compimento il suo piano in vista di Lillehammer. Nancy è di buona famiglia, bella, leggiadra sui pattini e dal carattere solare. Lei, al contrario, è bruttina e dal passato turbolento, ma molto potente e abile nei salti. La supremazia dell'immagine sulla preparazione atletica non può più andarle bene. Qualcuno deve intervenire. Destini incrociati è alle Olimpiadi invernali di Lillehammer. È il 1994 e due pattinatrici statunitensi sembrano sfidarsi da tempo anche su un piano extrasportivo. Sono la bravissima ma poco avvenente Tonya Harding e la bella e femminile Nancy Kerrigan, due sportive che incarnano due differenti visioni di uno sport che i media vogliono sempre più di immagine e meno di preparazione atletica. Quelle che avete appena sentito sono le urla di Nancy Kerrigan. È giovedì 6 gennaio del 1994 e siamo a Detroit, dove si svolgono i campionati nazionali valevoli per qualificare le prime 2 atlete alle Olimpiadi. Nancy ha appena terminato le sue sessioni di allenamento. La pattinatrice ci tiene a essere anche tecnicamente preparata. Non bastano i fiocchi tra i capelli e gli abiti da haute couture che la sua costumista Vera Wong le sta preparando. Come non perde occasione di raccontare lei stessa alla TV americana. La mia preoccupazione per queste prossime Olimpiadi è che lei si senta totalmente a suo agio e che si senta completamente libera nei suoi movimenti, poiché dovrà compiere alcuni tripli salti. Nancy, uscita dalla pista, compie il solito gesto meticoloso di mettere alle sue lame le protezioni di legno. Esce dall'arena e si avvia verso gli spogliatoi. Sono le 14.30 del pomeriggio. Viene fermata da una giornalista del Pittsburgh Post-Gazette che le chiede di rilasciarle un'intervista. Lei è sorridente e come sempre disponibile. Non può tirarsi indietro di fronte all'ennesima celebrazione del suo personaggio. Lei è la principessa del ghiaccio. Alle sue spalle però compare un uomo vestito di nero. Sembra un'ombra, quasi la parte oscura della sua solarità. Le si avvicina e la colpisce violentemente con una mazza al ginocchio destro. Le urla di Nancy sono strazianti. Questo why, perché, risuona in tutto il palazzetto. La soccorrono prontamente. La regina del pattinaggio di figura, lei sempre così accogliente, l'immagine cristallina di questo sport femminile, aggredita brutalmente. Tutti si chiedono perché. Il padre, Dan, il suo grande sostenitore di sempre, interviene subito. La raccoglie da terra e la porta in braccio fuori dall'arena. È l'uomo che l'ha aggredita? Nessuno l'ha visto bene. Si è dileguato in pochi secondi. Nemmeno lei ricorda nulla. Non ricordo che faccia avesse. È corso subito verso la porta e non sono riuscita a vederlo bene. Nella conferenza stampa del giorno seguente, Nancy annuncia a malincuore che non potrà gareggiare per un po'. Sto bene. Sono un po' risentita e arrabbiata per quello che è successo. Quello che voglio fare più di tutto è pattinare. Ma il dottore ha detto che non posso. No, Nancy non può pattinare per un po'. Le radiografie escludono danni gravi, ma la contusione all'incavo del ginocchio destro è tale da pregiudicare la sua partecipazione alla competizione del giorno dopo. The reason is a thigh contusion or bruise that's associated with knee swelling. The swelling is secondary to blood within the knee. Detroit, Michigan, 8 gennaio 1994. In assenza della favorita Nancy Kerrigan, il titolo americano di pattinaggio artistico va a Tonya Harding, 23 anni, già campionessa nel 91, davanti alla 13enne Michelle Kwan. Queste due atlete dovrebbero rappresentare gli Stati Uniti d'America ai Giochi Olimpici di Lillehammer. Ma la federazione americana trova una scappatoia nei regolamenti e al posto della Kwan ammette ai giochi la Kerrigan, pur se non ha disputato le qualificazioni. Contro il potere dell'immagine sembra davvero non esserci nulla da fare. Le indagini sull'aggressione alla Kerrigan si stringono sempre più intorno a Tonya Harding. Il 19 gennaio 1994, Jeff Gilloly, 27 anni, ex marito di Tonya, viene arrestato con l'accusa di aver organizzato tutto. Nella sua confessione, Jeff afferma che la ex moglie è pesantemente implicata nel delitto ai danni della rivale. Nel frattempo, però, la Federazione Americana di Pattinaggio comincia a prendere in considerazione l'ipotesi di revocare la convocazione olimpica a Tonya Harding, che continua a dirsi estranea alla cosa, e minaccia una causa legale miliardaria alla federazione. Lei vuole partecipare, anzi in totale opposizione con De Coubertin, lei vuole vincere. La vicenda della buona Kerrigan e della cattiva Harding fa il giro del mondo. Spunta anche un video hot della prima notte di nozze tra Tonya e Jeff, messo in giro da quest'ultimo per vendicarsi della compagna. Il pattinaggio non è mai stato così popolare, il destino ormai ha compiuto il suo corso. Nancy è di nuovo un'eroina e Tonya la ragazza torbida. Quando chiedono a Nancy, ormai ripresasi dall'infortunio e pronta per scendere in pista alle Olimpiadi, come si sentirà ad incontrare quella che sembra essere la principale indiziata del suo attacco, risponderà: non lo so come mi sentirò quando la vedrò e non so cosa succederà tra noi due. Tonya invece ha le idee chiare. Intanto deve dimostrare di essere la più brava. Il 25 febbraio arriva la sua occasione. This is backstage. And Tonya Harding, after the warm-up, had a problem with her laces. La tensione è alta. La gara è cominciata, ma Tonya è nel backstage con un laccio rotto. In ritardo di 2 minuti con la folla che la chiama, per Tonya è il panico. Prova a eseguire il suo programma, ma sbaglia. Singhiozzando, si dirige al tavolo della giudice di gara, Britta Lindgren. Appoggia il piede sinistro sul banco e, sempre tra i singhiozzi, le spiega che durante il riscaldamento le si è rotto un laccio dello scarponcino e che non ha fatto in tempo a sostituirlo. La Lindgren esamina il pattino e decide che sì, Tonya Harding può ripetere l'esercizio. Così, 20 minuti dopo, Tonya scende di nuovo sul ghiaccio ed effettua il suo esercizio, senza però nemmeno tentare il triplo Axel che l'ha resa famosa. La votazione della giuria la colloca all'ottavo posto della graduatoria finale. la bella e solare Nancy e medaglia d'argento, anche se c'è chi insinua che la giuria sia stata influenzata dall'intera vicenda. Nancy però non è d'accordo. Cosa ne pensino i giudici e il pubblico, non so, ma io non credo si sentano influenzati da quello che è successo. Il mio ginocchio sta meglio ora, quindi spero mi abbiano valutato per la mia performance. Il 7 marzo del 1994, Tony Harding si dichiara colpevole di intralcio alle indagini sull'aggressione a Nancy Kerrigan e patteggia la pena. In cambio dell'impegno della procura a non incriminarla per nessun altro reato connesso, accetta una condanna a 3 anni di libertà vigilata, alle dimissioni dalla squadra americana di pattinaggio e al versamento di $100,000 di multa, più $50,000 di beneficenza a uno speciale fondo per atleti, più $10,000 di rimborso spese alla procura distrettuale. Inoltre si impegna a prestare 500 ore di lavoro sociale, nonché a sottoporsi a visite e trattamenti psichiatrici eventualmente deliberati dalla corte. Tony ha perso su tutta la linea. Da allora ha abbandonato il pattinaggio per darsi alla boxe, come a voler assecondare il cliché della sportiva poco femminile e dal carattere irascibile. Mentre la buona Nancy, per lo stesso motivo, ha fondato un istituto che si occupa di non vedenti, la Nancy Kerrigan Foundation, e partecipa saltuariamente a tour ed esibizioni, dedicando la maggior parte del suo tempo ad attività umanitarie. Ancora oggi, quando chiedono a Tonya se si sente a posto con la coscienza, la sua risposta è sempre la stessa. Quante responsabilità devo ancora assumermi? Ho pagato il mio debito con la società. Vivo la vita giorno per giorno cercando di riuscire in quello che faccio. Quante punizioni pensi che io debba ancora subire? Tonya è il simbolo della performance che cerca di imporsi sull'immagine, ma che inevitabilmente trova la sua fine quando gioca sul piano della violenza, sia essa psicologica nei suoi confronti da parte dei media, sia essa quella dell'aggressione alla rivale. La fama della Harding in America è per lo più legata a quel gesto, sitcom, telefilm, programmi televisivi si sono ispirati a lei. È persino entrata a far parte del vocabolario americano. In uno dei suoi discorsi per la corsa alla Casa Bianca, anche Obama la cita. And when we were down 20 points in the summer, all the pundits and all the smart folks, they were saying, okay, his only chance now, he's got a kneecapper. He's got to do a Tonya Harding on the front runner. Un cantante folk americano, Ludon Wainwright, le ha persino dedicato una canzone. I'm talking about a swinging gal from Portland, Oregon. That's right, Tonya Harding. One of my favorites, if not my very most favorite. Swinging chick, great attitude. Not too long ago, she was on TV with Nancy. I guess they wanted to, or she wanted to bury the hatchet. She just doesn't give up, does she? Oh, what a gal. You knew she was in trouble when you saw her bodyguard. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.